Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda qui dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine, dalle ore 20, 20 e 10, 20 e 5 circa, fino alle 21 e 30. Ovviamente siete sintonizzati sui 90 MHz e andiamo con quella che è la sigla di questo programma, ovvero il brano Retribution dei Behind Enemy Lines. Eccoci qua, abbiamo ascoltato il brano sigla di questa trasmissione Zardins Magnetics ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane e andremo avanti fino alle ore 21:30. Ora andiamo invece all'ascolto di una vecchia band storica dell'anarcho-punk inglese, ovvero i Flux of Pink Indians, e ci ascoltiamo questo brano. Can you smell smell the new smell travelling through the air. Aye, I can, lad. It's a coming from over there. Over the hills, down in the valley, there's no buildings there. There's a nuclear power dump site. Someone doesn't care. Parliament says it's safe. But why not bury it there? Bene, questi erano i Flux of Pink Indians, band storica dell'anarco punk inglese, anzi così adesso leggendo un po' le note di copertina di questa compilation, è esattamente 40 anni fa l'uscita di questo 7 pollici che si chiama Neus Mill, e che comunque questa compilation si chiama Fifth and Stars, e raccoglie appunto tutti, cioè una gran parte dei lavori discografici di questa band esistita negli anni 80, anche se questa compilation raccoglie pure alcuni 7 pollici degli Epileptics, che non era altro che la band fine anni 70, agli esordi aveva questo nome, poi se appunto il nome di questa band è mutata in Flux of Pink Indians. E rimaniamo all'ascolto ancora di un brano. Skate! Adesso, prima di passare a un primo intervento, volevo solamente ricordare che in parte noi avevamo così un po' in qualche situazione, diciamo, nei social avvisato che ci sarebbe stata una compagna qui in diretta che avrebbe comunque parlato sulle riflessioni, cioè delle alcune riflessioni sul provvedimento, sui provvedimenti legislativi protezionisti e vittimisti, prendendo spunto dal decreto legge Zan, che comunque purtroppo questa compagna ha avuto un contrattempo e quindi non è potuta venire qui in diretta radio. Ultimamente, in più di una serata, qui a Trieste, si è deciso di compiere degli atti di ribellione collettiva rispetto al coprifuoco. Sì, coprifuoco, così è definito quel divieto che non ha nulla a che vedere con questioni di prevenzione sanitaria, ma che è il tipico provvedimento autoritario dei tempi di guerra, impedire alle persone di uscire nottetempo, dopo, in questo caso dopo le 10 di sera e fino alle 5 di mattina. Così si sono svolte delle passeggiate in centro città, ovviamente guardate a vista, per certi versi anche minacciate dalla polizia, che hanno saputo concretizzare un atto collettivo di ribellione rispetto a uno degli aspetti più odiosi della gestione autoritaria dell'emergenza sanitaria nel nostro paese. L'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione ha voluto intervenire anche con un volantino rispetto a chi ha fatto, alle persone che hanno fatto questa scelta, che sono scese in strada rischiando, perché abbiamo già notizia di qualche multa che è arrivata, e per dire la sua su questa pratica di ribellione e per dire la sua sul valore che questa misura del coprifuoco ha per i nostri nemici, per i nostri oppressori, un valore ovviamente calato sulle nostre teste. Ora vi leggerò il testo che abbiamo diffuso in un'occasione durante queste passeggiate collettive, che hanno rivendicato una cosa che fin poco tempo fa ci sembrava scontata, ma che ora, in tempi di coronafascismo, chiamiamolo così, non è più. Contro il coprifuoco, ma non solo. La scelta tecnica da parte dello Stato di utilizzare il coprifuoco come metodo per arginare a livello sanitario la propagazione del virus è ormai per molti una farsa. Oppure una scelta ben consapevolmente politica da parte di chi percepisce le persone come veri e propri sudditi incapaci di autodeterminarsi. Se in molti hanno capito che il coprifuoco non è utile per fermare un problema sanitario che interessa a tutti e tutte, allo stesso tempo fa sì che, con la paura, con il ricatto, tutte quelle persone che vogliono sentirsi libere di scegliere come e dove andare a qualsiasi ora del giorno e della notte vengano messe all'angolo. Il coprifuoco è una scelta tecnica prettamente militare e in questo caso strettamente politica. Se è giusto ora riprendersi un pezzo della nostra libertà ribellandosi, è evidente che la Costituzione non ci protegge dalle scelte tecniche dello Stato, il passaggio successivo sarà farla finita con tutto quello che ci ha portato a questa situazione. tornare a consumare mentre tutto va a rotoli non è nelle nostre necessità, bensì rivoluzionare quello che ci circonda, convinti che possiamo fare da noi riconoscendo cosa è nocivo per le nostre vite. Noi vogliamo la più concreta libertà per tutti e tutte. Niente sopraffazioni, niente profitto, gendarmi, con i padroni e tecnici allora serviti. Lottiamo per un qualcosa di diverso, per mettere fine a tutto quello che ci impedisce di vivere una vita completamente altra. Basta con gli obblighi imposti, scegliamo da noi cosa ci serve, come tutelarci, come curarci. E infine siamo per una schietta ostilità a chi ci controlla, reprime e se necessario ammazza. I nemici di chi vuole libertà esistono ed è ora di ritornare a far loro la paura. Quella paura che da tempo fanno vivere a noi oppressi ed oppresse. Assemblea permanente contro carcere e repressione. Yeah. intanto stiamo ascoltando questa band statunitense, esattamente da Portland nell'Oregon. Loro sono i From Ashes Rise e questa era il loro secondo album, Silence, datato già 2001, ben 20 anni fa. Volte dalle frequenze di Zaldin's Magnetics ho parlato della lotta del popolo palestinese per la liberazione della sua terra dall'occupazione israeliana. In questo periodo, in questi giorni, stiamo assistendo ad una recrudescenza del conflitto, dello scontro con l'occupazione. Si parla di decine di morti a Gaza sotto i bombardamenti israeliani. Il 10 maggio, la sera del 10 maggio, c'è stato un bombardamento che ha ucciso anche 10 bambini gazawi. Si sta assistendo ad una risposta decisa, per certi versi straordinaria, viste le condizioni a cui Gaza è sottoposta dal 2007, con un blocco economico e un assedio militare e le ripetute violenze israeliane con bombardamenti e attacchi, distruzioni. Si sta assistendo, dicevo, ad una resistenza straordinaria, esemplare, eroica, con centinaia di razzi Qassam che i gruppi della resistenza palestinese stanno lanciando verso le colonie israeliane, verso il territorio occupato della Palestina, la cosiddetta Israele. In particolare nella serata dell'11 maggio è stata colpita anche la capitale dello Stato sionista, Tel Aviv, è stato colpito un deposito di petrolio ad Ashkelon degli occupanti e le sirene della contraerea israeliana hanno suonato praticamente in tutto il territorio della Palestina del 48, della cosiddetta Israele. Come si è arrivati a questa situazione? Per capirlo bisogna parlare di quello che è successo, di quello che è successo nei giorni precedenti, nelle giornate, quello che sta succedendo a Gerusalemme. Ebbene, a Gerusalemme da tempo si sta assistendo ad una intensificazione, ad un aggravamento della pulizia etnica, dei tentativi di pulizia etnica da parte sionista, in particolare verso il quartiere di Sheikh Jarrah. È un quartiere di Gerusalemme Est, abitato quindi prevalentemente da palestinesi, i quali sono stati colpiti da parte di un tribunale israeliano, 40 palestinesi in particolare, tra cui 10 bambini, da ordini di evacuazione delle proprie case. Queste case devono essere abbandonate per essere cedute a coloni sionisti. In sostanza una vera e propria pulizia etnica legittimata dalle istituzioni giuridiche israeliane, che avviene in base a una legge del 1967, l'anno in cui appunto Gerusalemme Est è stata conquistata dall'esercito sionista. Secondo questa legge, gli israeliani possono reclamare immobili palestinesi in base ad una presunta loro proprietà ebraica prima della fondazione dello Stato di Israele, quindi prima del 1948. Pensate cosa significa, ecco, questa legge in sostanza. Vuol dire la possibilità di cacciare gli abitanti arabi di questa parte di Gerusalemme. Poi vi sono state continue provocazioni con assalti anche da parte della polizia, con in particolare recinzioni e divieti alla mobilità per tutto il periodo del Ramadan contro i fedeli e musulmani che andavano a pregare nella moschea di Al-Aqsa, la grande moschea che è simbolo dell'identità musulmana e araba di Gerusalemme. E ricordiamo, Gerusalemme capitale della Palestina, ma regalata, così dovrebbe essere, insomma, riconosciuta come capitale di Israele, ecco, diciamo così, perché i palestinesi assolutamente non cedono su questo, riconosciuta come capitale di Israele dalla precedente amministrazione statunitense di Trump, passo che da parte di Biden non è stato assolutamente revocato. Quindi questo, la pulizia etnica in corso a Sheikh Jarrah, con pulizia etnica che non è stata solo sancita giuridicamente, ma è stata anche praticata con provocazioni da parte dei coloni continue, violenze, assalti della polizia israeliana contro le proteste dei palestinesi, di Sheikh Jarrah, eccetera. Quindi una vera e propria campagna di pulizia etnica, di pressione etnica, perché questi palestinesi lasciano le loro case. E poi gli assalti e le provocazioni contro la moschea Al-Aqsa. Ecco, questi sono gli elementi per capire la situazione che si è prodotta, che oggi ha portato allo scontro, in questi giorni ha portato allo scontro militare. si diceva precedentemente, si ricostruivano gli eventi che hanno portato all'attuale scontro militare tra la resistenza palestinese e gli occupanti israeliani, e con i massacri, insomma, commessi da quest'ultimi contro la popolazione di Gaza, in particolare le provocazioni contro i fedeli nel Ramadan, durante il Ramadan a Gerusalemme presso la moschea Al-Aqsa, con il divieto di mobilità, con continue perquisizioni, con anche tentativi di invasione dei luoghi sacri dell'Islam da parte dei coloni, e la pulizia etnica in corso nel quartiere di Sheikh Jarrah di Gerusalemme Est. E lo scontro a Gerusalemme arriva al suo apice il 10 maggio, perché il 10 maggio è l'anniversario della presa da parte dell'esercito sionista di Gerusalemme, e la destra israeliana aveva lanciato una marcia di celebrazione della conquista di questa parte della città nel 1967. E quel giorno si scatena una guerriglia urbana violenta, fortissima, a Gerusalemme Est. Vi sono 278 feriti tra i palestinesi, uno di essi viene ucciso da un colono. Il 10 maggio era anche il giorno in cui la magistratura israeliana aveva fissato il termine perché i palestinesi di Sheikh Jarrah trovino un accordo, pensate voi, con i coloni israeliani che ne vogliono confiscare le proprietà immobiliari. Ecco, questo è la situazione che poi provoca, proprio dal 10 maggio, la risposta da parte dei gruppi armati della resistenza palestinese, che da Gaza iniziano a bassagliare con i missili Al-Qassam, missili per la maggior parte prodotti dai palestinesi di Gaza stessi, iniziano a bersagliare le città israeliane. Adesso siamo in questa situazione e vedremo gli sviluppi. Fatto sta che, insomma, nonostante la situazione pesantissima a cui sono sottoposti i palestinesi, anche in quello che è di fatto una sorta di campo di concentramento a cielo aperto, una prigione a cielo aperto, cioè Gaza, riescono ancora a trovare una forza straordinaria di resistenza, a combattere, opporsi a una delle macchine di morte più raffinate e violente sulla faccia della terra, qual è l'esercito israeliano. Ecco, naturalmente le violenze sono quotidiane anche da altre parti. Ricordiamo come anche precedentemente all'attuale recrudescenza in Cisgiordania, cioè l'altra parte cioè quelli che si vengono chiamati comunemente i territori occupati, sottoposti all'occupazione israeliana, e anche all'esercizio di quella autorità nazionale palestinese, che in larga parte è una struttura collaborazionista, anzi, insomma, in sostanza una struttura collaborazionista di Israele. anche lì nei giorni scorsi sono avvenuti arresti di massa, tra l'altro c'è stata un'azione della resistenza che ha colpito due coloni, uno successivamente è morto. Il 5 maggio vi era stato anche l'assassinio da parte dell'esercito israeliano di un giovane palestinese di 16 anni, Saed Youssef Mohammed, a cui è stato sparato alla schiena dai soldati israeliani. Ecco, si diceva poc'anzi di quanto sta succedendo in Palestina, delle sue premesse che riguardano la resistenza del quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est contro la pulizia etnica da parte delle autorità israeliane e da parte dei coloni della polizia israeliana, con le loro azioni violente che accompagnano l'apartheid sancito giuridicamente dalle istituzioni, dalla magistratura israeliana. E poi si diceva della capacità della resistenza palestinese, dei gruppi combattenti di Gaza, di rispondere alla pulizia etnica in corso a Gerusalemme Est con una massiccia offensiva di razzi Qassam che sta colpendo le città del nemico e sta restituendo un minimo del terrore che Israele infligge ogni giorno ai palestinesi e che sta ovviamente infliggendo in questi giorni in maniera feroce, come sempre avviene in queste fasi, contro la popolazione di Gaza. E in Palestina anche in quella che viene chiamata Israele, cioè nei territori del 48 sono in corso, si sono svolte varie e proprie insurrezioni popolari, insorgenze popolari, a Lod, a Majid al-Qum, e siamo di fronte per certi versi, almeno da quello che sembra, ad una nuova intifada, ad una nuova rivolta di massa del popolo palestinese. Ecco, ci tengo a dire ancora delle cose in questo intervento che rispecchia il mio punto di vista personale, di chi vi parla, non per forza quello di tutti i compagni e le compagne che partecipano a questa trasmissione. Ecco, innanzitutto chiamando la mobilitazione. A Trieste, ad esempio, il 14 maggio, venerdì, saremo l'iniziativa è lanciata da Salama Ragazzi dell'Olivo, ma insomma io invito tutti a esserci, c'era un presidio prima di fronte alla RAI e poi in piazza Obaldan di fronte alla RAI, alla sede RAI di Trieste in via Fabio Severo alle 10.30 e poi in piazza Obaldan alle 11. Qualsiasi azione di solidarietà, manifestazione eccetera è importante in questo periodo, ma penso sia importante insomma la solidarietà che più deve rimanere costante con il popolo palestinese è quella che portiamo avanti nelle lotte anche tutti i giorni, chi lotta in questo paese, insomma, chi è capace di lottare sui posti di lavoro, nelle strade, nelle carceri, e ovunque, perché insomma ricordiamoci che Israele non è solo l'entità che tormenta, che ruba la terra ai palestinesi, è un avamposto dell'imperialismo, quindi del sistema di cui l'Italia fa parte, un avamposto insomma di sfruttamento, è una pistola da tempia puntata sui popoli arabi, un'area fondamentale per l'approvvigionamento, per il furto delle risorse, soprattutto energetiche, ai popoli di quella regione, e anche un campo di sperimentazione di tecniche repressive, di strumenti di morte a livello militare, a livello bellico. Il principale probabilmente campo di sperimentazione, poi esportati a livello mondiale contro le lotte, anche le nostre lotte. Quindi pensiamo ad esempio al riconoscimento facciale, ecco, che viene ampiamente utilizzato proprio contro gli abitanti arabi di Gerusalemme, ad esempio. Ecco, ricordiamoci che l'Italia ha un accordo di collaborazione militare dal 2005 ufficiale con Israele, che affari militari italo-israeliani sono continui, l'ultimo in piena situazione di epidemia in Italia, di crisi economica è del 22 settembre del 2020, accordo di 700 milioni di dollari, 350 a carico dell'Italia. 50 milioni a carico dell'Italia. Ecco, in cosa vanno i soldi pubblici, ecco, per dirla così in termini banali, per certi versi, vanno in strumenti di morte, acquisto di piattaforme per l'aeronautica militare prodotte da Israele. Ecco, quindi quello che viene fatto ai palestinesi con i bombardamenti su Gaza poi viene tranquillamente acquistato con i nostri soldi che si macchiano di sangue palestinese, viene acquistato con i soldi dello Stato italiano per altri assassini per l'esercito italiano, insomma. Ecco, quindi lottare per i palestinesi, mobilitarsi, ma anche lottare con i palestinesi, nel senso che il nemico è comune, è l'imperialismo, gli stati imperialisti, lottare qui. La nostra Palestina dovrebbe essere quella della nostra situazione sociale, delle nostre case, delle case dove anche in Italia veniamo sbattuti fuori come in Palestina, in quanto i proletari vengono sbattuti fuori in quanto non riescono a pagare l'affitto, eccetera, magari non per motivazioni etniche o magari anche per motivazioni etniche, perché sappiamo che insomma i fanatici della Ruspa nel nostro paese, i vari Salvini, eccetera, sono anche i più grandi ammiratori, non a caso sono anche i più grandi ammiratori di Israele. Ecco, lottare per i palestinesi, in solidarietà, lottare con i palestinesi, lottare prendendo anche esempio da questa straordinaria resistenza che da decenni tiene testa a questa raffinata e feroce macchina di morte che è l'esercito israeliano, e insegna a tutti qual è la dignità, insegna qual è la dignità della rivolta, della lotta, dell'intifada. Insegna a tutti che la vera forza sta negli oppressi, nei popoli oppressi, nelle masse oppresse, nella loro unità, nella loro capacità di tenere testa agli oppressori e di porre le basi, oggi con la resistenza, per la vittoria contro un sistema che non solo in Palestina ma a livello mondiale produce solo morte e barbarie. quelli che abbiamo ascoltato ora erano i milanesi Kalashnikov Collective, che tra l'altro abbiamo pure ascoltato tra i vari interventi. E comunque questi brani che abbiamo ascoltato non sono altro che una compilation, una raccolta di brani per uno split su CD assieme ad un'altra band di nazionalità russa, ovvero i Flegmona. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band, questa storica band scozzese, gli Oi Polloi, più volte passati in questa trasmissione, anche perché insomma è una band attiva da quasi 40 anni e credo che i loro album ed EP 12 pollici e anche 7 pollici siano decine ormai, anzi credo una cinquantina. Comunque noi ci ascoltiamo alcuni brani da questo loro album datato 2017 che si chiama Unfinished Business. Sentite, Miss Dallas, voi non avete parenti e neanche io ho più famiglia. Forse vi sembrerò un po' presuntuoso, ma vi ho osservato con quel bimbo in braccio, il bambino di quella signora. Avevate un'aria così buona. Insomma, io ho una piccola fattoria oltre la frontiera in un bel posto con alberi, erba, acqua e lì vicino ho anche una casetta in legno costruita a mezzo. Ci può vivere lì. E anche una donna. Volete venire a starci con me? Ma voi non mi conoscete. Voi non sapete chi sono. Io so tutto quello che voglio sapere. Ci verrete? Oh, non mi parlate così. Mandi a tutte e a tutti. Chi è in ascolto a questo mio intervento di Hazardins Magnetics di giovedì 13 maggio 2021, sono da qualche settimana che i giornali parlano di questa operazione Ombre Rosse, ovvero della richiesta dello Stato italiano, dell'arresto e della richiesta di estradizione da parte dello Stato italiano di 10 individui per vicende che riguardano gli anni di piombo. E addirittura qualche giorno fa, domenica, il Presidente della Repubblica Mattarella ha rilasciato un'intervista sulla Repubblica nella quale parla della rivolta di un'intera generazione e di un conflitto comunque reale nella società, riducendolo a un processo mentale per cui, non potendo cambiare le condizioni politiche con il voto, costoro si erano convinti individualmente che lo Stato andava abbattuto con la lotta armata. E quindi c'è un disegno di spoliticizzazione del conflitto che continua, insomma, che è una cosa che viene messa in opera ancora oggi nel 2021 e che ha che è in cerca di effetti ben precisi, ovvero, insomma, che sono quelli di impedire e di prevenire qualunque tipo di scelta di tipo, appunto, non approvazione, insomma, così mera indignazione rispetto a quanto succede quotidianamente in questa società. Lettera di Walter alla cugina quindicenne Gabriella, ottobre 1976. E non è neanche immergendosi nello studio e nei lavori di casa che ti liberi e ti realizzi diversamente. Le cose che si vogliono bisogna sapere prendersele. Vorrei una volta riuscire a parlare con te della famiglia, di che cosa tu ne pensi e del rapporto che deve esistere tra due persone che si amano. Se no, ci riduciamo alla famiglia classica, la donna sottomessa a far calzetta o sui fornelli, l'uomo, il duro, quello che mantiene, quello che detiene il potere perché possiede la cultura. Senza toccare il tasto della fedeltà, non so cosa ne pensi di queste cose. Forse ti sembrerà una scemenza quello che dico, ma io sono uno dei tanti che pensano di cambiare qualcosa e non ritengo di essere un utopista, come dice mio padre. Quelli che dicono così vogliono nascondere la loro paura e il loro egoismo. Quindi penso che la tua libertà te la devi costruire. Questo è l'unico consiglio, anche se troppo generico, che ti posso dare. E quindi questa sera vorrei fare un tentativo di parlare a proposito di un libro che è uscito qualche tempo fa, a febbraio. Il libro si intitola Il tempo di vivere con te, l'autore è Giuseppe Culicchia e l'editore Mondadori. Allora, secondo me è un libro brutto che parla di persone belle. Le persone belle sono Walter Alasia e sua madre Ada. È un libro contraddittorio, un libro spoliticizzato, e le persone belle sono, appunto, come detto, la madre di Walter Alasia, e Walter Alasia che, come noto, è stato un brigatista nato nel 1956, appunto ucciso a sangue freddo nella mattina del 15 dicembre 1976, a 20 anni. L'autore Giuseppe Culicchia è il cugino di Walter, dunque le madri di Culicchia e di Alasia erano sorelle. Movimento che non sia definitivo, ultimo. peculicchia, basta insomma sapere che questo libro va messo nel genere della memorialistica e appunto racconta dal punto di vista di un bambino di 11 anni che appunto l'autore, racconta questo rapporto tra i due cugini. Ovviamente la parte che riguarda l'altro cugino non ne disponiamo. L'autore oggi ha 50 anni e cerca di rievocare, insomma, di scavare nella memoria e di rievocare tutta una serie di aneddoti, episodi, insomma, nei quali appunto si cerca di delineare la figura di questo cugino che al quale Kulikia ha voluto molto, insomma, ha voluto molto bene da bambino e che poi appunto ha scoperto, insomma, in maniera così brusca, quantomeno sue reali scelte di vita, e che poi hanno avuto delle ripercussioni significative su tutta la famiglia. Dunque, dicevo, un libro contraddittorio perché appunto è un tessuto di contraddizioni questo testo, insomma c'è da un lato il bambino frignotto che non voleva mai che suo cugino tornasse a casa, insomma Alasia e Kulikia si incontravano nella casa in cui trascorrevano le vacanze nella zona, insomma, del Canavese vicino Torino, e Walter Alasia tornava a Sesto San Giovanni e il bambino, insomma, non voleva mai che questo cugino più grande tornasse, lo abbandonasse, insomma. Da un lato questo bambino frignotto, dall'altro però c'è questo adulto cinquantenne in qualche maniera, insomma, crepuscolare, se non addirittura frignotto anche lui, che mette in piedi tutta un armamentario ideologico familista e perbenista per porre degli interrogativi a Walter che non c'è più rispetto alle sue scelte, e con il metro però di questa ideologica spoliticizzazione del conflitto, cioè trasportando un fenomeno che era appunto relativo a un conflitto sociale in atto negli anni 70, trasportandolo in una dimensione puramente emotiva e personalistica, insomma. E quindi si ha luogo una profonda distorsione, per cui viene ricondotto tutta una serie, una caterva di avvenimenti, fenomeni, e in una appunto ideologia della lunga scia di sangue indistinta. Me parece que es el ambiente adecuado para estrenar esta chacarera. Inaugurando la vida, brillando en el horizonte, el dios de los hombres quichua juntaba leña en el monte. La madre sembró ternuras en el corazón del niño, con solo mirarle dándole aliento para el camino. Estabas en el futuro, sin dueños y sin fronteras, te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. parodia a las negras con odio, miedo y mentira. Las garras ensangrentadas traicionan la propia vida. Gramilla te está esperando, semillas que esparce el viento para cantar en tu patio, hermanos y compañeros. Roberto Mario Santucho, guerrillero santiagueño, ni la muerte ni el olvido podrán vivir en tus sueños. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. ¡Bravo! Escúchame, eso tiene nombre de entrada, se llama... 15 dicembre 1976, Sesto San Giovanni. Il brigatista Walter Alasia viene ucciso in casa in un conflitto a fuoco con la polizia. Alasia ha 20 anni. Da quel giorno la colonna milanese delle Brigate Rosse è intitolata a lui. E lui poi è scappato, ha aperto la finestra e è scappato via, insomma, è saltato giù dalla finestra. Qua è scappato e ha fatto due o tre metri e si è sentito subito una raffica di mitra dove l'hanno fermato subito. E poi dopo un po' si è sentito un colpo solo, ma io non ho potuto star qua perché mi hanno presa e mi hanno portato di là con mio marito in sala. Mio marito stava male anche, fra l'altro. E niente, mi hanno bloccata là, non mi hanno più lasciata vedere niente, neanche Walter. Ho tentato di venire di qua, ma non è stata bloccata, avevano il mitra puntato. L'esito di questa operazione qual è? Far passare tutte le tensioni di un'epoca come dei fenomeni da museo, come delle curiosità. Addirittura a un certo punto, cioè, si riconosce che il protagonista è stato vittima, cioè che Walter Alasia è stato vittima di un'esecuzione da parte di un poliziotto rimasto anonimo. Ma l'autore del romanzo, insomma, del memoriale, chiede a Walter se si rende conto di aver ucciso un padre di famiglia, cioè questo sì, è il colmo, no? di questa dimensione di spoliticizzazione del conflitto. Persone belle, si diceva, non è un termine che introduciamo noi, ma è reperibile nel libro di cui stiamo parlando questa sera, Zardin Magnetics, che lo ricordiamo è Il tempo di vivere con te, l'autore è Giuseppe Culicchi e l'editore è Mondadori. Walter, con te tua madre, per me la zia Ada, entrambi belli da impazzire con i vostri sorrisi, le vostre voci, i vostri occhi blu, e lo dice, appunto, scrive così Culicchia. Appunto, beh, non ho detto, ma insomma c'è un apparato iconografico che giustifica almeno parte della spesa di questo volume, e il motivo è che sono tratte dall'archivio familiare, insomma, delle due famiglie, e sono dei bei ritratti, ecco, dei protagonisti. E la madre, la zia Ada, diciamo, è protagonista di lotte per, appunto, in una fabbrica satellite da Pirelli, lotte per ottenere condizioni vivibili, diciamo, o quantomeno con un impatto di nocività minore possibile, e in questa fabbrica satellite, l'ho già detto, della Pirelli. E l'esito però di queste lotte legali sono che l'esito è che viene destinata a un certo punto in un repartino, insomma, lontano, un reparto confino, a svolgere delle mansioni così alienanti, e quindi alla fine abbandona il lavoro. Io ritengo che al di là dei sorrisi e delle voci e degli occhi in blu, la persona di Ada sia bella, perché è l'esempio così di una madre che è sempre in ogni occasione solidale con le scelte del figlio, anche quando il figlio, insomma, è evidente che è stato lui, arriva, insomma, nel paesino del Canavese, e fa delle scritte, insomma, sui muri, fa delle scritte di slogan, in quell'epoca quell'epoca militava in lotta continua, e tutta la famiglia e tutti i conoscenti si indignano, si scandalizzano, e la madre è l'unica che lo difende. E, insomma, è una madre che sta sempre dalla parte di suo figlio, comprende tutte le sue scelte, e non per dargli ragione perché è accecata, ma perché c'è questo rapporto di vera comprensione, di vera, insomma, vicinanza nella lotta. Che in una rivoluzione si trionfa o si muore, se è una vera rivoluzione. Se una cosa abbiamo imparato a Cuba è che una sollevazione popolare senza l'appoggio della lotta armata non ha nessuna possibilità di prendere il potere. Io sto qui. E per farmi andare via da qui mi dovranno uccidere. Io sarò al fianco di quelli che resteranno, fino alla vittoria. Guevara è irrilevante. Se lei controlla la stampa e conquista il cuore e la mente dei contadini, la nostra migliore fonte di informazione. Se qualcuno sa dove sono i guerriglieri, sono loro. Questo tipo di lotta ci dà la possibilità di trasformarci in rivoluzionari, il gradino più alto della specie umana. Di trasformarci in uomini nel senso più puro della parola. Per sopravvivere qui e per trionfare si deve vivere come se si fosse già morti. Sono 6 mesi che siamo qui a combattere contro l'esercito. E voi vi chiederete perché? Quello che vogliamo è porre fine all'ingiustizia in questo paese. Finirla una volta per tutte con l'abbandono e la miseria in cui questo governo tiene il suo popolo. Per esempio, dove si trova l'ospedale più vicino? Più o meno a 100 chilometri, giusto? E che succede se vi ammalate? Prima dovete pagare un camion che vi porti a Baia Grande, e una volta lì dovete pagare per un alloggio. Poi andate all'ospedale, che dovrebbe essere pubblico. Però, perché il medico si occupi di voi, dovete prima pagare la visita. È così o no? E le medicine? Perché lo sapete, lì non vi danno gratis nemmeno un'aspirina. In altre parole, se tuo figlio si ammala e se muore perché non hai denaro per portarlo all'ospedale, a chi gliene importa? È per questo che dal trionfo della nostra lotta dipende la possibilità per voi di migliorare la vostra condizione. Io credo nell'uomo. Un'ultima cosa che volevamo, così, come un inciso che volevamo fare su questo libro, che ripetiamo, nostro giudizio è un brutto libro, un'operazione sbagliata, invischiante, fastidiosa, che va nella direzione, comunque, nella direzione in cui va che è indicata dalle cariche massime dello Stato, nei portavoce, insomma, nei media, nei portavoci degli interessi della Confindustria e della nostra controparte. Una cosa, appunto, che vogliamo aggiungere è che nonostante tutto, in questo romanzo si trovano anche delle ammissioni, insomma, delle secondo noi involontarie ammissioni, insomma, della realtà del conflitto di quegli anni e insomma, dell'importanza della solidarietà a chi, appunto, ha dato l'esempio e ha scelto la lotta, insomma, perché era una scelta di autodifesa degli oppressi, del proletariato di quegli anni. Sicuramente, insomma, va compresa storicamente, senza, appunto, confondersi con altre questioni, insomma, che vengono sempre introdotte strumentalmente in questi fenomeni. Quello che voglio, appunto, menzionare è quello che successe al funerale di Walter Alasia, appunto, circondati, insomma, da dall'antisommossa e dalla Digos, nonostante appunto che i sindacati della Triplice avessero organizzato a Sesto San Giovanni una manifestazione contro il terrorismo, nonostante tutto ciò i funerali di Walter Alasia avvengono, diciamo, sono pubblici e vicino alla famiglia si presentano anche 500 operai della Breda e della Pirelli e, con uno striscione e dei fiori con scritto appunto gli operai comunisti rivoluzionari di Sesto ricordano Walter. Al passaggio della bara con dentro Walter e questi operai insieme ai militanti di lotta continua di Sesto San Giovanni alzano il pugno e stringono i garofani rossi e cantano l'Internazionale. Sulle note di questo brano degli Oi Polloi, tratto dal loro album Unfinished Business, datato 2017, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è appunto Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30. Altra cosa che ovviamente vi do dei contatti dove potete ovviamente scriverci. Il contatto mail è liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org. E poi c'è pure un contatto per scriverci in forma cartacea, ovvero Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121 Trieste. E inoltre, se volete risentire questa trasmissione e comunque anche quelle passate, c'è pure questo blog che si chiama zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, allora ci risentiamo al prossimo giovedì. Vi lascio nuovamente con questo brano degli Oi Polloi, forse ne è partito un secondo, comunque questi ultimi due brani sono cantati in gaelico. Bene, ciao a tutti, sì, anche perché ovviamente gli Oi Polloi, forse non l'ho detto prima, comunque è una band storica scozzese. Va bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì.